mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano. Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, temi di carattere internazionale, Grecia e, ahimè, i primi conti che si fanno sulla Libia, anche di carattere economico. Chiaramente la variabile libica, come dicevamo ieri, è in primo luogo e soprattutto, oltre che di carattere umanitario, di carattere geopolitico, però il costo del conflitto, visto che oggi si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi sulla situazione in Libia, un vertice di politica estera chiaramente, però il costo del conflitto era già presente oggi sul Sole 24 Ore. È chiaro che l'ENI è il principale gruppo italiano in Libia, l'Italia resta il primo partner commerciale della Libia sia come cliente che come fornitore, con un interscambio complessivamente di 11 miliardi che si è già dimezzato rispetto al 2008 quando era di 20 miliardi. Noi vendiamo alla Libia prodotti che derivano dalla raffinazione del petrolio e anche macchinari e importiamo dalla Libia chiaramente gas, petrolio, soprattutto gas naturale 47%, petrolio 42%. Praticamente una volta, prima della caduta di Gheddafi, l'Italia importava dalla Libia quasi un quarto del suo fabbisogno di petrolio, il 25%. Adesso siamo scesi all'8%, anche perché la capacità della Libia di produrre petrolio è precipitata da 1.600.000 barili al giorno nel 2010 a meno di 200.000 barili attuali. Nel 2012 c'era stato un ritorno alla produzione quasi a livelli pre-guerra, intorno a 1.400.000 barili. Comunque ci sono 100 imprese italiane con presenza in Libia e alcuni contratti sono stati fermati dalla nuova fiammata di guerra in corso. Parleremo anche della Grecia, dicevo, perché le tensioni sul mercato ci sono dopo la nulla di fatto, ampiamente prevedibile a giudicare dalle dichiarazioni, ma insomma oggi la borsa di Atene ha perso il 2,35, i rendimenti sul titolo di Stato di Atene a 3 anni sono schizzati al 19,50%, quello del BTP greco a 5 anni è il 15,25%, più calmo quello il BTP a 10 anni greco al 9,96%. E su questo ci sono varie dichiarazioni che ascolteremo, quindi Grecia e Libia da un lato. Parleremo invece anche del buon dato che oggi è arrivato, lo faremo nella seconda ora del programma, sul commercio estero italiano, nel senso che abbiamo il dato sull'intero 2014, le esportazioni chiudono il 2014 con una crescita del 2%, ma soprattutto l'avanzo della bilancia commerciale, la differenza tra quanto abbiamo esportato nel 2014 e quanto abbiamo importato è positivo, e quindi il saldo è positivo a quasi 43 miliardi, è il livello più alto mai toccato da quando misuriamo l'avanzo commerciale. Se elevassimo le importazioni energetiche saremmo a 86 miliardi. In aggiunta faccio notare che a dicembre l'export ha fatto più 6%, ma rispetto a un anno prima, e a un livello ancora più alto se leviamo la componente del petrolio. E di questo, ripeto, parleremo nella seconda ora del programma. Parleremo anche di Veneto Banca, perché i militari della Guardia di Finanza hanno perquisito questa mattina a Venezia e in altre città alcune sedi della Veneto Banca, società cooperativa per azioni, perquisite anche le residenze dell'ex AD e ora direttore generale Vincenzo Consoli e dell'ex presidente Flavio Trinca. Disposte queste perquisizioni su una richiesta della Procura di Roma, che sta svolgendo un'inchiesta per ostacolo alla vigilanza. Non è quotata Veneto Banca, ma in virtù del valore degli attivi, oltre 26 miliardi, è tra le 11 banche popolari coinvolte nella riforma del governo che ne prevede la trasformazione in SPA. Allora, e anche di questo parleremo. 349-238-6666 per i vostri SMS, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Notizie in breve, partiamo dalla borsa: più 0,12% Milano, meno 0,34% Parigi, meno 0,60% Francoforte e sui titoli Londra più 0,36%, l'America meno 0,26%. Come mai Milano meglio di altre borse? Beh, principalmente per Saipem più 3,80%, come Telecom Italia più 3,80%. Buzzi Unicem più 3,20, Intesa più 1,5, Pop Emilia Romagna più 1,30, Banco Popolare e Pop Milano più 1%. Perde Tenaris il 3% e Steam Microelectronics l'1, Moncler lo 0,80 come Snam e World Duty Free. Euro a quota 1,13,9, quindi vicino a quota 1,14, il petrolio di nuovo sceso ma resta sempre lì intorno ai $51-52 il barile, oggi era $51,50. Arriviamo poi alla Grecia e al nostro export e anche alla vicenda libica. Invece oggi ci sono sviluppi dopo che il Sole 24 Ore oggi in edicola aveva riportato alcune indiscrezioni secondo cui il governo sarebbe pronto a dichiarare la guerra al contante con l'introduzione di un'imposta di bollo proporzionale ai versamenti giornalieri superiori ai €200 e questo tra l'altro con un vantaggio per le banche che vedrebbero calare i costi di gestione del contante e aumentare il guadagno sulle operazioni con la carta. Il primo tassello sarebbe stato rendere obbligatorio dal 2017 per i commercianti, artigiani e professionisti la memorizzazione e trasmissione telematica al fisco di tutti i corrispettivi giornalieri per dire addio allo scontrino di cassa. Perché uso il condizionale? Perché il governo oggi, secondo una nota del Ministero dell'Economia, ha smentito questa ipotesi, ha detto che il governo non prevede l'applicazione di alcuna tassa sull'uso del denaro contante. Sempre dal Ministero dell'Economia, ma in realtà soprattutto dall'Agenzia alle Entrate, oggi arriva un altro dato: a quanto è ammontata nel 2014 l'evasione nel settore immobiliare, potrebbe valere circa 4 miliardi e 300 milioni, la differenza, il cosiddetto tax gap, tra il gettito teorico dovuto dai contribuenti e ricostruito in base ai valori catastali e il gettito effettivo standard, che è quello che effettivamente abbiamo versato con IMU e TASI. Nel 2014 dalla casa è arrivato, come TASI e IMU, sono arrivati 3 miliardi e mezzo, di più nel 2012, 4 miliardi. E hanno pagato nel 2014 in media i proprietari della prima casa €204 contro i €227 del 2012. Ancora con due notizie per quello che riguarda l'audizione alla Camera dei Deputati del direttore generale della Banca d'Italia Salvatore Rossi. Sulla riforma delle banche popolari, Rossi ha ribadito quanto aveva detto il governatore Visco, cioè La forma cooperativa è un handicap che va rimosso al più presto per le banche dalla dimensione e dalla complessità delle 10 maggiori banche popolari, che devono accedere tempestivamente al mercato dei capitali per rafforzare il patrimonio. Cioè, cosa dice Salvatore Rossi? Che finché tu mantieni la forma delle popolari, e quindi il voto capitario, la soglia, il possesso delle azioni, anche in queste 10 banche che per dimensioni sono le più grandi tra il mondo delle popolari, questo rappresenta un handicap per nuovi ingressi di capitale, e che invece sarebbero necessari per rafforzare il patrimonio. E poi aggiunge Rossi: la riforma delle banche popolari contenute nel disegno di legge Banca e Investimenti è auspicabile non perché la impongano i regolatori o i mercati internazionali, ma perché lo suggerisce il buon senso, e va nella direzione di rafforzare la capacità di ben operare in un mercato bancario in forte cambiamento. Quindi registriamo il secondo, non endorsement, ma giudizio positivo sulla riforma del mondo delle banche popolari, dopo quello appunto del governatore Ignazio Visco qui al Forex, che si è tenuto 2 settimane fa a Milano. Aumentano anche le sofferenze delle banche, quindi i prestiti che non riusciranno a essere ripagati. L'ammontare è cresciuto a fine 2014 del 17,8% rispetto al 2013, toccando la cifra di 183,7 miliardi di euro. Allora, parlavamo anche di fisco, e oggi al tema di cosa è contenuto nel decreto mille proroghe, soprattutto per le partite IVA, e dicevo, a questo tema sono dedicati 100 secondi di Radio 24 assieme a Radio Dimensione Suono. Oggi il vice direttore che li firma è Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Con il decreto legge mille proroghe, che proprio in queste ore è in votazione alla Camera, arrivano due grandi novità per le giovani partite IVA, sia professionisti sia titolari di attività artigianali e commerciali. La prima novità riguarda la possibilità di scegliere anche per il 2015 il regime fiscale agevolato con tassazione al 5%. Le nuove attività quindi per il 2015 potranno optare tra questo regime e quello nuovo introdotto con la legge di stabilità, che aveva però l'aliquota al 15% ed era stato molto contestato dal popolo delle partite IVA perché è decisamente meno conveniente del precedente. Contemporaneamente, sempre nel mille proroghe, viene anche congelato l'aumento al 30% dei contributi previdenziali per le partite IVA iscritte in via esclusiva alla gestione separata dell'IVA. Sappiamo che il mondo delle partite IVA è stato molto molto colpito dalla crisi, e sappiamo che merita un'attenzione decisamente più importante da parte del governo. I due interventi inseriti nel mille proroghe sono positivi, ma deve anche essere chiaro che sono solo una soluzione ponte per consentire al governo di rivedere, come più volte ha promesso lo stesso Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il regime di tassazione delle partite IVA. Si tratta di un passaggio importante che deve essere fatto avendo ben presente che il fisco e la previdenza sono ingombranti per tutti, ma che per i giovani che avviano una nuova attività diventano spesso un ostacolo insormontabile. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it. Allora, la pagina internazionale, perché qui, come in un videogioco, fai tempo a tentare di chiudere una crisi che se ne apre un'altra, e fummo facili profeti nel dire a fine dicembre che tutte le prospettive, anche inizio gennaio, erano positive: petrolio basso, euro debole, prestito della Banca Centrale Europea, acquisti della Banca Centrale Europea, attenzione alla variabile internazionale. Pensavamo fosse quella russa a pesare di più, in realtà si è aggiunto anche dopo il voto greco tutta la variabile greca e adesso si è aggiunta anche quella libica. Allora, nell'ordine, oggi la Russia dall'Ucraina, più che la Russia, scusatemi, non ha molte notizie, non di carattere economico soprattutto. Sulla Libia, arriviamo tra un attimo, volevo fare una rapidissima sintesi delle varie dichiarazioni sulla Grecia, perché la Grecia è una specie di romanzo quello che sta avvenendo. Allora, al di là dei rendimenti schizzati al 19,50% del BTP greco a tre anni, tra l'altro è palesemente invertita la curva dei rendimenti in Grecia, cioè quello a tre anni rende 19,50, quello a cinque anni il 15 e quello a dieci anni il 9,96. Non è un bel segnale, perché sappiamo che un paese sano rende di più prestare i soldi a un paese per 10 anni che non prestare i soldi per un paese a un anno, perché 10 anni il rischio è più alto. Invece, quando un paese non ha orizzonte, quello che stava capitando all'Italia a fine 2011, inizio 2012, tu chiedi tanto per prestare i soldi a un anno, a due anni, a tre anni, e sui 10 anni chiedi di meno perché non vai nemmeno a speculare. Ecco perché rende di più il BTP greco a 3 anni il 19,50 di quello a 10 anni il 9,96. Secondo la stampa greca, le banche greche starebbero sollecitando il governatore della banca centrale ellenica, Yanis Stournaras, a trovare ulteriore liquidità il più presto possibile, dopo che il fallimento delle trattative con l'Eurogruppo ha innescato una corsa agli sportelli bancari in Grecia. La Grecia sta consumando velocemente i fondi di emergenza. La settimana scorsa le banche greche hanno aumentato di 51 miliardi l'uso dei fondi di emergenza messi a disposizione dalla Banca Centrale Europea, dopo averne usati 5,8 miliardi nelle 2 settimane precedenti. E domani si riunisce il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea con l'ordine del giorno anche, tra le altre cose, il voto sulla concessione dei fondi di emergenza alle banche elleniche. È un altro fondo rispetto a quello che ha bloccato Draghi, è il Fondo Emergency Liquidity Assistance, si chiama ELA. Però domani appunto vi sarà un ordine del giorno anche su questo nel consiglio direttivo della BCE. Il piano A, che è l'unico piano possibile, nel frattempo stabilisce il portavoce della Commissione Europea Skinas, dice: il piano A è che ci sia un accordo a 19, questo è l'unico piano sul tavolo. Non commenta un eventuale piano B. La decisione finale dovrà essere concordata da tutti i 19 membri dell'Eurozona, e questo lo ha reso chiaro ieri l'Eurogruppo. Lo stesso commissario europeo agli affari economici monetari, Pierre Moscovici, ha detto: non esiste un piano B. Ed è tempo che chieda l'estensione, è tempo che la Grecia chieda l'estensione del programma. E ancora il presidente dell'Eurogruppo, Ron Dijsselbloem: spero che la Grecia chieda un'estensione del programma di aiuti e poi potremo applicare la flessibilità. Per ora la prossima mossa sta ai greci, noi non possiamo imporre nulla. Sulla stessa falsa riga anche il ministro di finanza tedesco Schäuble: dipende solo dalla Grecia se resta nell'euro, la situazione è difficile e sarà difficile che Atene possa permanere in un programma di assistenza finanziaria. Nel caso di un'uscita si creerà una situazione ancora più difficile, aggiunge Schäuble. Però oggi risponde Alexis Tsipras, il premier greco, e ha detto: la democrazia greca non può essere minacciata, la Grecia non ha fretta e dunque non accetterà compromessi. E poi il premier greco Tsipras ha aggiunto: il ministro delle finanze tedesco Schäuble ha perso le staffe, anche se poi ha aggiunto che la vignetta pubblicata sul giornale di partito di Syriza, il partito di Tsipras, che raffigurava Schäuble in divisa da nazista, è stata una vignetta infelice. E allora andiamo con ordine. Il portavoce della Commissione Europea, Margaritis Skinas: il piano A è l'unica soluzione, l'unico piano possibile ed è l'unico che abbiamo sul tavolo, prevede l'accordo dei 19. Sentiamo questo passaggio in lingua originale che ci è appena arrivato. Il piano A, la Commissione, c'est qu'il y ait un accord à 19. E c'est le seul plan che nous avons sur la table. En ce qui concerne l'évolution de ce projet. On parle des idées que dans notre rôle de facilitateur et de honest broker, nous avons contribué, comme d'autres, à plusieurs étapes. Et c'est un processus qui n'est pas étranger ou bizarre dans des négociations de ce type. Quindi dice, insomma, il progetto è in evoluzione, si discutono le idee e questo è il nostro ruolo di mediatori, è un processo che non è affatto strano in negoziati di questo tipo. Dijsselbloem, dicevo, il presidente dell'Eurogruppo, vicino al mondo del rigore, spero che la Grecia chieda un'estensione del programma di aiuti, poi potremo applicare la flessibilità. Spero che chiedano un'estensione del programma di aiuti e una volta che avranno fatto questo potremo applicare la flessibilità all'interno del programma. Chiarite le loro priorità politiche, certamente constateremo se il piano è ancora sui binari giusti. In realtà ora sta veramente ai greci, tocca a loro. Noi non possiamo costringerli o imporre nulla, dipende da loro. Ma noi siamo pronti a lavorare con loro anche nei prossimi due giorni. E ho già detto delle dichiarazioni di Tsipras che dice appunto la democrazia greca non può essere minacciata, la Grecia non ha fretta, non accetterà compromessi. Il ormai famoso ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis, entrando al vertice Ecofin, ha detto ok, serve una soluzione buona per tutti, non solo per gli olandesi o i greci, riferimento alla Dijsselbloem. Il passo successivo è quello della responsabilità. L'Europa continuerà a deliberare per aumentare le possibilità di un accordo e per ottenere un ottimo risultato per tutti gli europei, non solo per i greci o gli olandesi o i tedeschi. In Europa sappiamo come lavorare in modo da arrivare a una soluzione giusta partendo da una situazione iniziale di disaccordo. E poi il nostro ministro all'economia, Padoan, anche lasciando l'Ecofin, ha definito in maniera molto schietta poco utile il vertice di ieri, nulla di fatto, tutti sono rimasti sulle loro posizioni, ma ha detto si potrà avviare un dialogo e poi ha commentato il resto del vertice Ecofin di oggi, sostenendo che la Banca Europea degli Investimenti è disponibile ad accelerare i tempi per finanziare i progetti prima che il piano Juncker, quello che mettendo 20 miliardi spera di sviluppare 300 miliardi di investimenti in Europa, prima che quel piano sia completato. Posso riferire solo quello che è uscito dall'Eurogruppo, la riunione a cui ho partecipato, che è stata una riunione in sé poco utile, però a partire da quella riunione il dialogo continua in termini molto costruttivi. L'Italia sta tutelando sempre i suoi interessi. Il tema principale dell'Ecofin e anche della riunione del board della Banca Europea degli Investimenti questa mattina è stata quella di rendere operativo il piano Juncker, sia in termini di governance del nuovo fondo strategico degli investimenti in Europa, sia direi anche e soprattutto di accelerare l'azione della Banca Europea degli Investimenti nel finanziare investimenti in tutti i paesi, anche prima che l'architettura istituzionale del piano Juncker sia completata. C'è stata molta disponibilità sia da parte della Commissione che da parte del Presidente Hoyer e quindi questo spero che si traduca molto presto in più investimenti nell'Unione Europea e naturalmente anche nel nostro Paese. Stiamo cercando di accelerare rispetto ai tempi che pensavamo, comunque il lavoro di regolamento dell'EFSI, cioè del piano del Fondo Europeo di Investimenti e del management di questo nuovo strumento è molto più avanti di quanto ci si potesse aspettare solo un mese fa. Sulla questione della partecipazione degli Stati membri diretti al Fondo Europeo c'è in molti Paesi la tendenza a veicolare queste eventuali risorse attraverso le cosiddette banche di sviluppo, cioè nel caso italiano la Cassa Depositi. Noi stiamo esaminando questa ipotesi che viene adottata anche da altri paesi. E pochi istanti fa le agenzie hanno battuto un'altra dichiarazione di Tsipras che dice il piano di austerity è morto, bisogna trovare un nuovo. E non, la strategia non, siamo, non accetto ultimatum, il piano di austerity è definitivamente morto, occorre trovare un nuovo piano. Quindi le posizioni restano distantissime. Allora, dopo il metro pubblicità, intanto ringrazio per averci raggiunto in studio. Ci spostiamo dalla Grecia alla Libia, sempre nel Mar Mediterraneo, del Mar Mediterraneo stiamo parlando. Grazie intanto a Laura Cavestri del Sole 24 Ore. Grazie a voi. Allora Laura, dopo il metro e la pubblicità andiamo sulla Libia, perché al di là del vertice di oggi non è cambiato molto, ci mancherebbe, iniziamo a fare i conti anche su quello che è il rapporto commerciale. Noi siamo il primo partner sia come fornitore che come cliente per la Libia. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Meteo. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora Laura Cavesti, tu oggi su Sole 24 Ore hai fatto un primo calcolo di quanto ci potrebbe costare, ripeto, al di là della variabile umana che è la prima e di quella di politica estera che è l'altra variabile importante, la nuova guerra che si sta scatenando e si è già scatenata in Libia. Perché lo dico? Perché noi siamo da sempre l'ex colonia, il primo fornitore, il primo e anche il primo cliente. Pensate che già nel passaggio, diciamo, post Gheddafi, poi vedo molti messaggi sulla lungimiranza di Sarkozy e anche di parte della nostra classe politica nell'abbattere Gheddafi. Potremmo fare un lunghissimo programma su questo. Per l'America era un terrorista, anche per la Gran Bretagna. Dopodiché un po' il caso di Saddam Hussein, e guardate come è cambiata la posizione con la Siria. E cioè, lì bisogna capire se prevale il principio ideale, non dico ideologico, ma ideale, o il principio di realismo. Se prevale il principio ideale, tu abbatti un dittatore e poi spesso in questi casi non eri pronto a sostituirlo con nessuno, non conoscevi il paese. Vale per l'Iraq, vale, guardate cosa è successo con l'ISIS, vale per la Siria, dove improvvisamente è stato riabilitato Assad perché si è capito che era meglio lui dell'ISIS, e vale per la Libia, dove si è capito che un dittatore terrorista secondo Stati Uniti e Gran Bretagna come Gheddafi era meglio di quello che stiamo vedendo. Poi uno può dire c'è il principio ideale e quindi era giusto abbattere Gheddafi, e poi però ci sono anche tutti i principi di retroscena. C'è chi dice che la Francia volesse mettere mano alla mettere piede ancora più forte in Libia perché la Libia era completamente italiana come petrolio, e quindi fosse l'Alpha Kitten, o meglio le grandi spinte delle compagnie petrolifere francese a, diciamo, suggerire a Sarkozy di mettere un piede in Libia. Non solo non ha messo un piede in Libia, ma adesso tutti hanno levato i piedi dalla Libia, quindi quantomeno un disastro dal punto di vista della politica estera. Poi vedremo il resto. Ma detto questo, torniamo al rapporto economico con la Libia. Noi ai tempi di Gheddafi avevamo un interscambio commerciale di 20 miliardi. Già nel 2000 si era poi dimezzato, era tornato a circa 14 miliardi, poi adesso arrivo, scusatemi, si era dimezzato arrivando fino a 11 miliardi. Noi che cosa facciamo con la Libia? Sostanzialmente vendiamo alla Libia i prodotti della raffinazione del petrolio, il 56% dell'export, poi anche alcune macchine di impiego generale o per impieghi speciali, apparecchiature di cablaggio, auto e motori. Noi importiamo prodotti energetici e gas, 47 petrolio e 42, per un totale di 8 miliardi. Pensate che ai tempi di Gheddafi noi importavamo il 25% di tutto il nostro petrolio, un quarto del nostro serbatoio si riforniva con la Libia. La fetta adesso è scesa all'8%, anche perché la capacità produttiva libica è precipitata da 1.600.000 barili nel 2010 a meno di 200.000 barili attuali. Nel 2012 vi fu invece un tentativo di tornare ai livelli precedenti a 1.400.000 barili al giorno. Allora Laura, questo è il fronte petrolio, quello più conosciuto. In realtà ci sono 100 imprese di dimensioni anche importanti italiane in Libia. E come stanno andando gli investimenti e quali sono gli accordi che potrebbero probabilmente saltare? Allora, le imprese che sono in Libia sono tra 100 e 150, alcune sono ancora presenti, perché soprattutto quelle che si occupano di manutenzione impianti nel sud e nella parte invece più confinante alla Tunisia, dove ci sono raffinerie, dove ci sono impianti offshore nel mezzo del Mediterraneo, ci sono ancora attività ordinarie, come dire, fatte con personale del luogo, non più più con personale italiano, ma c'è ancora una, come dire, una minima attività delle nostre imprese. Sicuramente stime precise, dati precisi non ci sono, ma ci sono alcune stime. Ad esempio, ci sarebbe, si stima che ci sia 1 miliardo di euro tra crediti, con immobili, macchinari e commesse e contratti, come dire, che sono in questo modo, vivono in un limbo, che sono in qualche modo sospesi. Senza contare che poi c'è una vecchissima partita di crediti inevasi da parte dell'allora governo di Gheddafi negli anni 90 e nei primi anni 2000 nei confronti delle nostre piccole, medie, grandi imprese che operavano lì con appalti, con contratti importanti, che sarebbe di circa un altro miliardo di euro. Quindi siamo nell'ordine già di, diciamo, 1 miliardo di euro di crediti inevasi antichi, diciamo pre-Gheddafi, 1 miliardo di euro di come dire, patrimonio di ricchezza italiana di residenti, ma anche imprenditoriale sul posto, in qualche modo rimasta in balia degli eventi. Allora, intanto vedo moltissimi commenti su quello che ho detto. Io ho detto solo che uno può percorrere un principio ideale, e ha ragione chi scrive: allora perché lo stesso principio gli americani non lo applicano in Arabia Saudita? È vero, anche lì non è che bisogna che sia tutta sta democrazia e tolleranza. E allora ecco perché io dico attenzione, perché l'idealismo poi o lo applichi su tutti, ed allora devi applicarlo anche sugli amici arabi, amici, diciamo, di tutti gli Emirati. Non puoi andare a invadere l'Arabia Saudita perché lì hanno gli emiri e non fanno guidare, in alcuni casi nemmeno votare, le donne. Per cui dall'altra parte qualcuno mi scrive: ma come, non era un dittatore, e le bombe a Lockerbie chi l'ha messe? Puffi. Attenzione, ho detto che non era un terrorista, era un terrorista, e in Stati Uniti e Gran Bretagna lo trattavano come terrorista, noi no, nel senso che veniva come capo di Stato libico anche a Roma, incontrava il Presidente del Consiglio del tempo, l'ultimo che ricordo fu Berlusconi. Ho detto semplicemente che, attenzione, guardate, secondo me la frase più corretta la scrive un ascoltatore che dice: Gheddafi era un bastardo dittatore, ma era il nostro bastardo dittatore. Cioè, io, uno deve essere anche molto realistico, tra Gheddafi e quello che sta capitando adesso, se ci fosse un processo democratico in corso in cui i libici vanno a votare, ma è ovvio che sarebbe molto meglio adesso, ma siccome abbiamo l'ISIS che controlla metà del paese, ha ragione l'ambasciatore Buccino, l'ambasciatore italiano in Libia, Giuseppe Buccino, a dire: attenzione, non bisogna dire che la Sirte e Tripoli sono in mano all'ISIS, è sbagliato, è vero, non drammatizziamo, il paese è spaccato in due. Però dico, in quella metà del paese che è in mano all'ISIS, boh, vogliamo fare un ragionamento? Si trattava meglio con Gheddafi o si trattava meglio con l'ISIS? Boh, non lo so. Io, è chiaro che dici sono due scenari diciamo negativi, però tra due scenari negativi puoi sempre scegliere. Forse si trattava meglio con Gheddafi, visto il modo di trattare, diciamo, leggermente barbaro che hanno quelli dell'ISIS. Comunque andiamo avanti con Laura. C'era anche il trattato di Bengasi del 2008, dove noi ci siamo impegnati, come controparte avevamo il controllo delle frontiere libiche, altro tema che non stiamo trattando, perché Gheddafi si era impegnato a controllare tutti i barconi, e c'era anche riuscito per alcuni periodi. Non sto dicendo che Gheddafi fosse una bella persona, dico solo che bisogna ragionare in maniera realistica nella vita. Dicevo, nel trattato di Bengasi noi avevamo un investimento importante, 5 miliardi, no? Sì, il trattato di Bengasi che hanno stretto Berlusconi e Gheddafi appunto nel 2008 prevedeva che cosa? Che l'Italia, per ripianare in qualche modo, per compensare come dire, i danni inferti alla Libia nel periodo coloniale, versasse nell'arco di 20 anni 5 miliardi di dollari, con un importo annuo di circa 250 milioni di dollari. Come si potevano reperire questi soldi? Beh, tassando in parte, con un piccolo onere, i proventi del petrolio estratto dall'ENI, con fondi che poi sarebbero confluiti in questo fondo per la Libia. Quindi in pratica l'autostrada costiera che Gheddafi voleva, dalla, come dire, che attraversasse, certo, tutta la Libia, l'avremmo in parte pagata noi, in parte pagata, come dire, il sistema industriale, il sistema paese, insomma, e in qualche modo, in questo caso appunto, con la tassazione sull'ENI. E lì c'erano tipo Salini in pregilo, condotte, Ravennati, c'era un'accordata, il valore Pizzarotti, CMC, no? Sì, questa era la cordata Salini in pregilo, Gilo insieme a Condotte Pizzarotti e CMC, che ha vinto questo appalto per questi 1700 chilometri di autostrada del valore di circa 1 miliardo di euro. Anche qui diciamo che con la caduta di Gheddafi il trattato di Bengasi o comunque gli accordi non sono venuti meno, è venuta meno tutta quella che era la tempistica e soprattutto il fondo per la Libia. Noi non lo abbiamo alimentato con grande costanza in questi anni di crisi economica, anzi è anche servito a volte per attingere, come dire, a fondi che sono serviti ad esempio a ripianare in parte la cassa integrazione. Abbiamo utilizzato una parte di questi fondi per fare posso altro. Fare una battutaccia, beh, a questo punto meglio, perché ci fossimo messi a costruire anche l'autostrada appunto i 1700 chilometri di costa per regalarla all'ISIS, cioè, allora quello era l'accordo che era anche per i danni di guerra, famosa battaglia di, certo, Gheddafi contro l'Italia. Ma in realtà l'obiettivo di fondo, se si può ragionare in maniera realistica, era bloccare il flusso di migranti verso, certo, le nostre coste. Nel ringraziare, no, sospiro perché ogni tanto. Nel ringraziare Laura Caveste sulle 24 ore, faccio notare che da questo punto di vista Gheddafi l'abbiamo definito un dittatore, un terrorista. È vero che bombardava i suoi, tutto quello che volete. Ho solo detto, da un punto di vista ideale, tutti e due sono dittatori e terroristi, ISIS e Gheddafi. Da un punto di vista della realpolitik, si può dire, senza essere ipocriti, anime belle, ben pensanti e così via, che Gheddafi, il dittatore terrorista, come ce ne sono altri in giro per il mondo, ci garantiva, era un interlocutore unico con cui riusciva a fare degli accordi per appunto bloccare i confini, bloccare lo sbarco di migranti in cambio di soldi per l'autostrada, mentre con l'ISIS non ho un ricordo di un paese che sia riuscito a fare un accordo e la Libia è qua davanti. Questo si può dire che i francesi in primis e tutti quelli che sono andati dietro hanno fatto una grandissima cavolata. Traffico. Allora, andiamo alla borsa adesso e poi agli altri temi. Non posso rispondere a tutti i messaggi su questo, per carità, qualcuno dice che non sono realistico, sono cinico. Vabbè, io guardo però i fatti, diciamola tutta, dai. Va bene, tanti messaggi su questo, ma il tema è delicatissimo, oltre che gravissimo. Molti scrivono anche di Saddam, che la prima guerra in Iraq con Bush padre non destabilizzò Saddam perché non avevano nessuno da mettere al suo posto. Ma sì, andremo troppo in là, onestamente. Che la politica estera americana, insomma, abbia commesso qualche errore madornale non è sotto gli occhi di tutti. Comunque la borsa oggi, al di là di Libia e Grecia, Milano è tra le migliori in assoluto oggi, Piazza Affari più 0,47%, Parigi invariata, Francoforte meno 0,25%, Londra più 0,60%, l'America meno 0,11%, molto bene Saipem più 4,40%, Telecom più 4,20%, Buzzinice più 3,70%, Intesa più 1,70 come la Pop Emilia Romagna, Banco Popolare più 1,40 come Mediolanum. Perde Tenaris il 3%, Moncler lo 0,90 e Steam Microelectronics lo 0,70 come Snam. E allora la Radio Colli sulle 24 ore oggi nella persona di Flavia Carletti. Buonasera. Sì, buonasera a tutti. Saipem, Telecom, Buzzi, Unicem, vai. Sì, appunto, Saipem oggi è stata la migliore del listino ed ha guadagnato il 4,41%. Sono stati i conti che sono pubblicati che hanno scatenato gli acquisti sul titolo, in particolare perché anche se il gruppo ha chiuso il 2014 con una perdita di 230 milioni, questa è stata causata soprattutto dalle svalutazioni, quindi in assenza di queste ci sarebbe stato un ritorno alla redditività. E inoltre il gruppo ha comunque confermato che nel 2015 tornerà in utile e a sorpresa c'è stato anche un calo del debito per la prima volta dal 2011. Invece passiamo a Telecom, appunto la seconda. quella sì. migliore. In questo caso si sono scatenati gli acquisti sulle ipotesi di stampa su aggregazioni nel settore. In particolare si è tornato a parlare di un possibile accordo tra Tre e Wind, e alcuni analisti si sono spinti oltre, al di là del fatto che movimenti nel settore potrebbero far beneficiare comunque Telecom, che potrebbero riaprirsi delle possibilità a risico europeo, ma in particolare alcuni analisti, parlando più che analisti operatori, parlando proprio del mercato italiano, ipotizzavano che delle aggregazioni con minori concorrenti potrebbero far beneficiare, potrebbero avere creare meno pressione sui prezzi, quindi meno spinta a fare offerte migliori per accaparrarsi più clienti, e quindi meno competizione a prezzi un po' più alti, e quindi gli operatori potrebbero avvantaggiarsi di queste fusioni e quindi avere meno operatori di telefonia mobile nel comparto italiano. E poi Buzzi Unicem, dicevamo. Sì, esatto, Buzzi è stata la terza migliore, anche lei ha avuto un forte rialzo del 3,67% dopo uno già di ieri del 5%, e in questo caso più che notizie o analisti, si parla più che altro di un quadro tecnico positivo, cioè il titolo ha superato alcuni livelli tecnici che hanno fatto scattare gli acquisti, e quindi adesso si sta avvicinando a una nuova resistenza che se avvicinata o se addirittura superata potrebbe far incrementare ancora di più il titolo. È proprio una questione di quadro tecnico positivo. Ancora tra i titoli, oltre appunto all'aspetto più tecnico di Buzzi Unicem e invece quello più strategico di risico per Telecom e di conti veri e propri su Saipem, abbiamo Intesa San Paolo più 1,70%, e ancora per quello che riguarda Popolare Emilia Romagna più 1,70%, Banco Popolare più 1,40%. Ne riparliamo, Flavia, dopo il GR24 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo concludendo l'approfondimento di borsa con Flavia Carletti, e dopo aver parlato di Saipem, Telecom, Buzzi Unicem in netto rialzo, Tenaris oggi, Flavia, perde invece il 3%. Sì, esattamente, Tenaris ha pagato un po' il fatto che comunque nell'ultima settimana aveva recuperato parzialmente e si avvicina alla pubblicazione dei conti. In più oggi c'è stato un momento del petrolio che a New York sta perdendo circa il 2%, quindi probabilmente di fronte a una Saipem che invece per altri fattori ha beneficiato della giornata, magari sui titoli, perché Tenaris comunque è considerato un titolo legato comunque al comparto petrolifero, invece hanno preferito probabilmente gli investitori venderlo. Un'ultima notizia invece riguarda Fiat, meno 0,47%, però oggi i dati sul mercato europeo dell'auto a gennaio hanno segnato un buon incremento, oltre 1 milione di auto consegnate, 1.028.000, più 6% sul gennaio del 2014, tra l'altro in Germania più 2,6, Francia più 6,2, Italia più 10,9, Spagna più 27%, ma sono in corso in Spagna gli incentivi, Gran Bretagna più 6,7%, il gruppo Fiat fa più 5,8%, oggi il mercato è un po' freddino. Sì, esattamente, c'è un po' di cautela comunque. Fiat è stata oscillato come un po' tutto il mercato intorno alla parità nel corso della giornata. Sono arrivati tutta una serie di commenti di varie associazioni del settore sui dati auto. C'è chi comunque ha detto sono dati positivi perché segnano una ripresa, in qualche modo, soprattutto dai quattro mercati più importanti europei, anzi cinque, sì, aggiungendo la Gran Bretagna. Però in qualche modo c'è anche chi aspetta, magari c'è un po' più di cautela. Poi adesso vedremo, domani c'è anche una visita. Certo. Ci sono degli incontri domani, il Presidente del Consiglio incontrerà i vertici Fiat, vedremo, insomma, comunque più cautela rispetto, cioè non sì, c'è stato dopo, un grandissimo dopo entusiasmo. Dopo sono visto i funerali di Michele, sì, esatto, di Michele Ferrero. Grazie a Flavia Carletti, migliori e peggiori, Ambientesis più 19, Gefran più 6,20, D'Amico più 6,11, fronte opposto invece Edes meno 5, Sintesi meno 3,70. Restiamo in tema di, non di borsa perché non è quotata, ma di banche sì, e banche popolari. Innanzitutto vi faccio ascoltare un passaggio dell'intervento oggi del Presidente della Commissione Bilancio alla Camera e anche esponente della minoranza del PD, e lui è Francesco Boccia, ospite di Giovanni Minoli e Mix 24 sulle popolari, scusate il gioco di parole, Boccia ha bocciato la riforma del governo. Che cosa è imbarazzante soprattutto delle dichiarazioni di Padoan? Ma io trovo imbarazzante questo ragionamento che continua, va avanti. Facciamo questo decreto e ci sarà più credito alle imprese. Questa dichiarazione è una dichiarazione assolutamente incoerente e sbagliata. Il ministro Padoan ha detto che nessuno vuol farle finire nelle fauci degli stranieri. Ecco, lei ci crede? Ma guardi, è inevitabile che se si modificano le regole, che io sono disposto a modificare, ma con dei paletti, e cioè qual è la quota massima che può detenere un socio? Io dico non più del 3%, se ci mettiamo il 5, il 10 o il 15 è chiaro che i fondi di investimento entrano dentro, comprano, si allargano e poi decidono di... E quindi nasce un periodo, un pericolo di svendita, le prime privatizzazioni sostanzialmente. Sì, oppure fanno una banca globale che va benissimo, magari. Ma perché va benissimo anche la banca anche globale? Bene, ma non finanzierà, ecco. Le imprese che hanno le caratteristiche territoriali a cui facevo riferimento prima. Cioè... Allora, di analisi e opinione opposta invece rispetto a quella del presidente della Commissione Finanze e esponente della minoranza PD Boccia è, come ricordavo in apertura, quella invece del direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, che ha detto: attenzione, l'attuale forma cooperativa, gli attuali vincoli delle banche popolari vanno rimossi al più presto. Per le 10 maggiori popolari, vista la loro dimensione e complessità, in modo che possano accedere tempestivamente al mercato dei capitali per rafforzare il patrimonio. È un handicap patrimoniale, cioè hai meno azionisti che vogliono mettere i soldi perché sei sostanzialmente con tutti questi vincoli. La riforma non è dettata dai mercati ma dal buon senso, e questo per quello che riguarda il tema generale della riforma dei popolari. Poi c'è una di queste banche che sarebbero coinvolte dalla riforma, dove oggi sono, ed è Veneto Banca, dove oggi i militari della Guardia di Finanza hanno perquisito sia a Venezia che in altre città alcune sedi, perquisite anche le residenze dell'ex AD e ora direttore generale Vincenzo Consoli e dell'ex presidente Flavio Trinca, come conseguenza di quanto disposto dalla Procura di Roma, che sta indagando per ostacolo alla vigilanza. Stefano Elli del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, che cosa contesta la Procura, Stefano? Bah, di fatto contesta l'ostacolo alle funzioni di vigilanza, cioè l'articolo che cosiddetto del 2638,1 per le società non quotate, ed è in buona sostanza quello che viene visto dai militari in questo primo accesso. Sono degli affidamenti che sono stati fatti a determinate persone fisiche e giuridiche per poter rafforzare in buona sostanza i ratio patrimoniali della banca stessa, insomma, in buona sostanza. Si vendono azioni della banca e con il denaro accumulato appunto si falsificano o si determinano determinate osservazioni di bilancio. Scusa, ma qua sta suonando di tutto. Da questo punto di vista, secondo gli inquirenti, sarebbe stata indicata una situazione più florida di quanto effettivamente non fosse. Su questo c'è anche una contestazione, se ho ben capito Stefano, di decurtazione del patrimonio di vigilanza e la tendenza che tu ricordavi a concedere prestiti in assenza di tutele, esatto, che avrebbero comportato 192 milioni di euro di perdite? Sì, questo è quello che... 157 milioni di euro di perdite, conseguenza di diminuzione del capitale. Questa è la quantificazione finale della questione. Quindi, se ho ben capito, quando tu hai ricostruito, cioè fare comprare azioni della banca e far risultare i conti della banca migliore del previsto... Sì, di fatto va a impattare su quello che viene definito il tier 1, cioè il coefficiente di rischio patrimoniale che viene, diciamo, truccato in buona sostanza da 6,5, che è il minimo, all'8. Questo era il risultato nelle ispezioni di Banca d'Italia del 2013 che avevano dato inizio alle contestazioni formali. Ecco, e che Veneto Banca che poi ha chiuso il bilancio del 2014 con un rosso da 650 milioni. Va detto, lo dico per completezza di informazione, che oggi il presidente dell'istituto Francesco Favotto ha detto: Veneto Banca ripone piena fiducia nell'operato della magistratura e della Guardia di Finanza, garantisce la massima disponibilità a collaborare con le autorità nelle modalità che riterranno più opportune. Altro per ora non c'è, e quindi ringrazio Stefano Elli, lancio il traffico e poi parliamo invece del buon dato di oggi, ottimo oserei dire, sulle nostre esportazioni nel 2014. Già avevamo avuto più di un sentore, ma il 2014, oggi ce lo dice l'Istat a livello ufficiale, è stato un ottimo anno per il nostro export. Addirittura, la differenza non è solo l'export che conta, ma è la differenza tra importazioni e esportazioni, ha toccato nuovi record. Vediamo perché, vediamo dove. Allora, nel 2014 abbiamo fatto più 2%. Ma soprattutto il saldo della bilancia commerciale, della differenza tra quanto abbiamo esportato e quanto abbiamo importato, è positivo per 42,9 miliardi di euro. È il livello più alto da quando misuriamo il saldo commerciale. Senza le importazioni energetiche, sarebbe, quindi che chiaramente quelle pesano comunque, sarebbe attivo di 86 miliardi, ma non solo. Da dove è arrivata la spinta? Allora, settori alimentari e tabacchi più 3%, tessile abbigliamento più 4, farmaceutica più 20, meccanica più 3,6, mobili più 3,2, mezzi di trasporto più 7%. Per quello che riguarda invece i paesi di provenienza, molto bene Belgio più 15, Spagna più 4, Polonia più 9,9, benissimo la Cina più 6,6, gli Stati Uniti fuori dall'Europa più 10,2, e bene anche la Germania, visto che poi non contano solo le percentuali ma anche i volumi realizzati, i valori realizzati, più 3%. In calo, come prevedibile, la Russia meno 11,6, la Svizzera meno 6%, e appunto anche il Giappone meno 10,11. Il professor Marco Fortis, che insegna economia industriale alla Cattolica di Milano, vicepresidente della Fondazione Edison, nonché editorialista del Sole 24 Ore, proprio sui temi anche del nostro Made in Italy, del nostro commercio con l'estero. Buonasera. Buonasera. Qual è il, adesso, i numeri sono tanti, quali sono quelli che le sono piaciuti di più, e concentriamoci anche su dicembre, perché ci dà poi quello che dovrebbe essere l'abbrivio per l'inizio del 2015. Professor Fortis. Beh, cominciando da quest'ultimo punto, sicuramente un dicembre molto positivo, cresciuto così tanto sul fronte delle esportazioni, dà un ulteriore segnale che proprio la fine del 2014, l'inizio del 2015, potrebbero essere un momento decisivo per una ripresa dell'economia italiana, spinta sia dal buon andamento della domanda estera netta e sia anche da una ripresa dei consumi interni. Per quanto riguarda invece l'intero 2014, certamente sono tante le cifre interessanti. Vorrei ricordare che oltre ad avere una bilancia esclusa l'energia molto alta, addirittura quella relativa alle sole attività manifatturiere ha sfiorato i 100 miliardi, arrivando a 99,5, che è un vero record di tutti i tempi. Negli ultimi tre anni avevamo fatto 92,8 nel 2012 e 97 nel 2013, quindi il dato del 2014 è veramente molto positivo. E vede tra l'altro metà del surplus generato dagli apparecchi meccanici, che sono ormai diventati il nostro punto di forza principale. Una novità molto interessante è anche che per la prima volta la farmaceutica mette a segno negli ultimi anni un surplus molto positivo, superiore al miliardo di euro, che la dice lunga sui progressi fatti dal nostro paese anche in termini di attrazione degli investimenti stranieri e di importanti multinazionali che poi esportano dall'Italia. Poi naturalmente si conferma il buon dato della moda, perché siamo a un surplus di 18 miliardi di euro, molto bene anche i mobili con 6,9 miliardi di surplus commerciale con l'estero, e le piastrelle ceramiche e i marmi che sono sopra i 6 miliardi di euro. Quindi, l'alimentare com'è andato? L'alimentare pensare è positivo, ha avuto una crescita molto forte a dicembre, ma ha chiuso l'anno del 9,4% di crescita a dicembre su dicembre del 2013, ha chiuso bene l'intero 2014 con un aumento del 3,2% ed è, se escludiamo i prodotti a debole trasformazione come carni fresche congelate, pesce fresco congelato e latte, è un settore che ormai ha anch'esso un importante strutturale attivo, spinto sia dai vini che dai prodotti mediterranei come pasta e derivati del pomodoro. Allora, dicevo, dicembre, qui c'è un effetto che però si è innescato da settembre in poi, ossia il calo del prezzo del petrolio, che è un grosso vantaggio, lo ribadisco, anche perché annulla il calo dell'euro sul dollaro, che è un vantaggio per le esportazioni, però noi esportiamo anche prodotti petroliferi, diciamo, lavorati, diciamo così, no? Come sarebbe dicembre senza, diciamo, levando la componente energetica, che chiaramente quando tu vai a vedere il valore nelle esportazioni cala perché il prezzo del petrolio è più basso e cala anche il valore di quello che esporti in termini di trasformazione di prodotti energetici, quindi al netto della componente energia le esportazioni a dicembre in valore quanto sarebbero salite? Beh, diciamo che le nostre esportazioni a dicembre, escludendo l'effetto soprattutto dei prodotti petroliferi raffinati, avrebbero potuto tranquillamente fare un valore anche superiore all'8%, tra l'8 e l'8,5%, adesso seconda siccome si stimano il dato dell'energia. Mm-hmm. Un dato di fatto comunque è che il 2014 si è chiuso con un aumento del 2% nonostante un calo del 14% del valore dei prodotti petroliferi raffinati, che pesano comunque per il 4% nell'export. Allora, mi dia il tempo di rispondere un paio di ascoltatori. Allora, non è che dobbiamo essere felici, importiamo meno perché abbiamo meno soldi, ho capito, questo può essere, vale anche però per le imprese che producono italiane, che producono per mercato interno, non è che importiamo solo meno roba dall'estero, consumiamo meno in generale, però, e su questo non ci sono dubbi, altrimenti avremmo avuto un PIL nel 2014 in crescita e non in calo. Detto questo, c'è da essere felici perché almeno la componente export non solo si conferma, ma aumenta la sua forza, a dimostrazione che non è un problema solo o tanto dei prodotti che sappiamo produrre, è un problema di soldi che non ci sono nei consumatori italiani, mettiamola così, no? E di disoccupazione record e quant'altro, ma la competitività del sistema paese Italia quando va all'estero e nei mercati sia in area euro che fuori dall'euro è altissima ed è a record come saldo commerciale. Nessuno vuole festeggiare, risponde un altro ascoltatore, con ostriche e champagne, anche perché aumenterebbero l'import. Al massimo posso festeggiare con Gran Seole e Prosecco, così le rispondo. Però detto questo, no, siamo contenti se esportiamo di più o no, bisogna tirarsi una clava, diciamo, in certe parti anche in questo caso. Fortis, qual è secondo lei il paese o il settore che è un po' mancato all'appello e che prospettive vede, visto che lei conosce nel dettaglio i settori produttivi distretti, il famoso medagliere olimpico? Noi siamo al primo, al secondo, al terzo posto in 100 prodotti mondiali, lo ricordo anche se il copyright è suo. Cos'è che l'ha deluso un po' di più? Giusto una chiosa. In realtà, considerando proprio i primi, secondi e terzi posti, arriviamo quasi a 1000, siamo 900 rotti. Poi i prodotti valgono complessivamente, questi qui in cui abbiamo il primo, il secondo e il terzo posto, 100 e quasi 70 miliardi di dollari. Come delusione, ma più che una delusione, è purtroppo la conseguenza delle tensioni geopolitiche, c'è cioè il crollo dell'export verso la Russia, che è diminuito dell'11,6%. E ha pesato per 1,2 miliardi, se non ricordo male, in valore di esportazioni in meno, perché non è poco, è crollato, non è scomparso, ma è già iniziato, diciamo, a metà anno. Grazie anche a Marco Fortis, da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24, la passione si sente.